Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Ma perché i francesi che hanno un vino, io dico meno buono, diciamo uguale, devo vedere Hollande in settimana, per cui non facciamo crisi diplomatiche, diciamo uguale, io penso migliore, ma non si può dire. Perché però loro hanno il doppio dell'export nostro? Perché si sono organizzati prima, perché hanno messo un sistema paese a servizio dei prodotti agroalimentari, perché hanno avuto la forza di parlare bene della Francia e non di parlare male del proprio paese all'estero. Non parla così Renzi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, perché ha bevuto, ma perché vuole invitare, insomma, il buon bere italiano italico in concorrenza con quello francese, perché pare che le esportazioni francesi continuino comunque ad andare meglio. Ne ha parlato oggi all'Expo, durante la giornata dell'agricoltura. Ma noi parliamo di molte altre cose stasera. Parleremo di questo strappo, no? Tutti titolano lo strappo della minoranza PD sulle riforme, un dibattito molto, molto febbrile, molto accidentato, però il problema è che spesso non si capisce che cosa ci sta dietro e a volte c'è anche una terminologia molto politichese che impedisce di accedere, diciamo, alla conoscenza dei fenomeni politici, di quello che succede. A proposito di riforme, in particolare si ragiona della riforma del Senato, ci sono vari attriti, varie resistenze, non si capisce neanche chi più è favorevole e chi no. Sicuramente la maggioranza del PD, la minoranza no, però anche Forza Italia da che parte sta? Cercheremo di capire qualcosa di più stasera anche su questo. Poi sull'immigrazione, ieri ci siamo lasciati praticamente che era fallito il vertice che era tanto atteso da giorni, no? Il vertice europeo straordinario sull'emergenza immigrazione. E adesso che si fa mentre continuano migliaia di profughi, di migranti a spingere alle porte dell'Europa, le varie frontiere, le varie rotte che si sono create? Poi c'è la storia, veramente una storia che lascia sgomenti, diciamo ormai davvero è di routine questa dei femminicidi, lo ripeto spessissimo qui a Effetto Notte, ma la storia che vi racconterò stasera e sulla quale interverrà anche l'avvocata Giulia Buongiorno più tardi è veramente emblematica di come sia considerato il femminicidio in Italia, lasciamo stare nel resto del mondo, ma in Italia, di donne che denunciano più volte, magari di uomini che vengono brevemente arrestati per 10 giorni, come il caso di questo che ha ucciso ieri l'ex compagna, soltanto la giornata di ieri 2 femminicidi, aveva tentato anche di buttarla giù dal balcone, però poi avevano ritenuto che potesse circolare liberamente, semplicemente gli avevano detto non andare dove abita lei, ecco, basta dirlo naturalmente cosa fatta. Di questo parleremo, poi ci sono anche questioni che riguardano la pagina economica con la Caritas che attacca il governo e dice non è che sia molto distinto rispetto ai predecessori nell'affrontare la povertà, solo il Movimento 5 Stelle ha fatto qualcosa, ha detto la Caritas, e poi c'è la Champions League, insomma un sacco di cose, per cui non perdiamo tempo in ciance. Vi ricordo che ci sono sempre i vostri 2 canali privilegiati per intervenire qui a Effetto Notte con le vostre opinioni, c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure potete mandare i messaggi al 349-238-6666, sia commentando questa ennesima fatto relativo ai femminicidi, sia anche su quello che capite o non capite di queste riforme in ballo. Intanto partiamo con i titoli. Riforme, strappo della minoranza, PD che abbandona il confronto sul nuovo Senato. L'emergenza migranti, la cancelliera Merkel chiede subito un altro vertice straordinario e sollecita l'Italia per la creazione dei centri di identificazione. Esodati, protesta al Ministero dell'Economia per chiedere tutele per 50.000 senza lavoro né pensione. I ministeri di Economia e Lavoro fanno sapere che il governo studia soluzioni per risolvere il disagio. Economia, secondo i dati Istat, tra i disoccupati calano gli scoraggiati, ma 9 su 10 cercano impiego tramite amici, e per la Caritas il governo sulla povertà non si discosta dai predecessori. Le vittime del maltempo, è stato ritrovato nel Piacentino il corpo di uno dei 2 dispersi. Femminicidi, fermato all'alba l'ex compagno della giovane donna uccisa ieri vicino Napoli, accusato di omicidio volontario, lei lo aveva denunciato più volte. Allarme dagli Stati Uniti, arrestato un giovane sospettato di pianificare un attacco contro il Papa ispirato dall'ISIS. Calcio, la Juve esordisce in Champions contro il City a Manchester. Partiamo Partiamo quindi dalla politica e dall'acceso dibattito sulle riforme. Durante il confronto sulla riforma del Senato, la minoranza PD ha lasciato il tavolo della Commissione Affari Costituzionali, ma il governo Renzi non è intenzionato a fare dei passi indietro, anzi sembra che voglia accelerare. Renzi ha poi confermato, come aveva detto già giorni fa, entro il 15 ottobre la legge di stabilità deve essere presentata in Senato, e questo rende anche ragione della data del 15 ottobre per la conclusione delle riforme. Ma tra poco, come dicevo, cercheremo di capire quali sono i motivi del contendere e chi sta con chi praticamente. L'emergenza migranti: dopo il fallimento del vertice di ieri, la presidenza lussemburghese del Consiglio europeo convoca un Consiglio d'affari interni straordinario per il 22 settembre. In questa occasione la presidenza auspica di far approvare una decisione su un meccanismo provvisorio, perlomeno per il ricollocamento di 120.000 profughi. Sapete che la questione è sempre quella delle quote obbligatorie che vari paesi, soprattutto dell'est, non accettano. Ma la situazione generale, comunque, sia per il flusso eccezionale di migranti, sia per le difficoltà dell'Europa di farvi fronte, è decisamente difficile, e tra poco appunto ne parleremo. Siamo sul fisco. Il sottosegretario dell'economia Zanetti ha detto che l'ambizione è tendere alla scadenza unica per tutti i pagamenti, così magari no, uno non deve tenere sempre d'occhio il calendario, chiedendo che sarebbe esclusa l'IVA, che ha delle scadenze periodiche che non può che mantenere la sua natura. Via IRAP ed IMU agricola, intanto confermato Renzi questa mattina all'Expo, all'assemblea della Coldiretti. Sono arrivati da tutta Italia i 30.000 agricoltori che con cappelli e bandiere gialle si sono riuniti all'Open Air Theater di Expo per celebrare la giornata dell'agricoltura organizzata da Coldiretti. Positive le analisi della Federazione Agricola, che nel primo semestre 2015 registra un aumento dell'8% nelle esportazioni agroalimentari. Poi arriva l'annuncio di Renzi sul taglio dell'IRAP agricola a partire dal 2016. Il prossimo anno, dal 1 gennaio, non pagheremo più neanche l'IRAP agricola. Era un impegno che era difficile da mantenere, abbiamo trovato le coperture ieri. Oltre allo sgravio fiscale, la tutela del Made in Italy è una delle priorità del settore, ha sottolineato il ministro delle politiche agricole Maurizio Martina, già in prima linea nella difesa dei formaggi italiani dalla liberalizzazione del latte in polvere. Infine, la lotta al caporalato, una piaga da estirpare, come ha scritto il presidente Sergio Mattarella in un messaggio. Valeria Grandi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E vedo subito sollecito Max da Udine al 349-238-6666, manda questo messaggio a proposito di Renzi che invita al consumo del Made in Italy, in particolare del vino. Dice: bel coraggio Renzi a fare sto pistolotto sul vino quando anche i suoi europarlamentari stanno approvando il trattato di libero scambio a tutto vantaggio, che io chiamerei forzati. Avete forzato il libero scambio. Massimo da Udine: di prodotti delle multinazionali notoriamente di qualità discutibile. Cercate di mettere insieme i messaggi con un filo logico. Intanto passiamo al problema degli esodati. Questa mattina c'è stata una manifestazione di protesta al Ministero dell'Economia e ci sono stati toni durissimi del leader della Lega. Un capitolo tuttora da chiudere, quello degli esodati. A quasi 4 anni dalla contestata riforma Fornero, in ballo vi sono ancora infatti 50.000 lavoratori, denunciano i sindacati, senza stipendio e senza pensione. Stiamo studiando soluzioni alle situazioni di disagio per coloro che non sono rientrati nei provvedimenti precedenti, promettono i ministri dell'economia Padoan e del lavoro Poletti. Ma la risposta dell'esecutivo non soddisfa CGL, CISL e UIL. La Fornero va cambiata, dicono i rappresentanti dei lavoratori, durante il presidio davanti al Ministero dell'Economia, ministero che ha visto anche l'occupazione da parte della Lega, così Salvini. È una legge fottutissima, stramaledetta, lei, chi l'ha votata, chi l'ha proposta, che dovrebbe essere cancellata. Protesta della Lega anche alla Camera, con l'occupazione simbolica dell'aula da parte dei deputati del Carroccio, ma il nodo esodati è una priorità anche per le altre forze politiche. È necessario accelerare i tempi, dice dal PD Damiano. Gli 800 milioni quest'anno debbono essere impiegati, noi abbiamo il tema della settima salvaguardia e dell'opzione donna. Ma dobbiamo correggere la circolare dell'Inps. Sugli esodati è necessaria una soluzione, commentano Forza Italia, SEL e i Fratelli d'Italia. La Fornero va abolita, dice il Movimento 5 Stelle. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Secondo giorno di scuola arriva questa dichiarazione da parte, questo annuncio da parte della ministra Giannini dell'istruzione, che dice che il contributo di 500 euro netti per l'autoformazione dei docenti previsto dalla buona scuola, previsto appunto da questa legge, sarà dato per quest'anno in busta paga, forse già a ottobre. Quindi già a ottobre in busta paga gli insegnanti potrebbero trovarsi questi 500 euro che dovrebbero servire all'autoformazione. Siamo sulle questioni economiche. Nel secondo trimestre si è registrato un miglioramento degli andamenti andamenti del mercato del lavoro, rivela l'Istat. Scendono gli scoraggiati, 100.000 in meno, ma il canale per trovare lavoro restano purtroppo amici e parenti e non il merito. 9 su 10 lo cercano attraverso gli amici e parenti. E sul fronte lotta della povertà, la Caritas striglia il governo dicendo che appunto sulla povertà il governo non si discosta dai suoi predecessori, ma che la nuova attenzione sul tema la si deve al Movimento 5 Stelle con la sua battaglia per il reddito di cittadinanza. Ce ne occuperemo dopo, così anche della digital tax voluta da Renzi. Il maltempo, l'allerta è cessata in Emilia Romagna, è stato intanto ritrovato il corpo di uno dei due dispersi in provincia di Piacenza. Luigi Agnelli, 43 anni, fioraio di Piacenza, è stato trovato morto un chilometro a nord dalla frazione Biana. Poco distante era stata trovata la jeep su cui lui e il padre Filippo Agnelli viaggiavano, dispersi da ieri nella Val Nure. L'ultima notizia dei due era un messaggio su Facebook proprio di Luigi Agnelli: mi è straripato il Nure in faccia, ho rischiato di rimanerci, ora so cosa provano le vittime dei fiumi in piena. Terrore, grazie ai miei angeli. Mentre continua la ricerca di Filippo Agnelli, 67 anni, la procura di Piacenza ha aperto un'indagine sulla loro scomparsa. È tornata sotto controllo la situazione nei comuni del Piacentino e in provincia di Parma, colpiti dall'esondazione dei fiumi Nure, Trebbia e Ceno, ma restano in difficoltà alcune frazioni, tra queste le aree del comune di Ferriere. Il sindaco Giovanni Malchiodi: sono senza luce, sono senza telefono ed hanno anche l'acqua torbida. Sono situazioni che uno non le capisce se non le vive. Il Piacentino resta diviso in due: la zona collinare con tratti di strada completamente spazzati via e auto distrutte, mentre in pianura cantine, scuole, campi coltivati e impianti sportivi sono allagati. In molti sono scesi in strada per riparare i danni nelle scuole e permettere la riapertura. Federica Frola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Notizia dagli Stati Uniti: l'FBI ha arrestato un ragazzo di 15 anni sospettato di pianificare un attentato contro il Papa a Filadelfia, dove il pontefice si recherà per l'incontro mondiale delle famiglie. Lo riportano diversi media statunitensi. Il fermo è avvenuto un mese fa, ma la notizia è stata diffusa solo adesso. Adesso siamo di nuovo in Italia con la cronaca, con la giovane donna uccisa ieri nel Napoletano. Oggi è stato arrestato l'ex compagno che da tempo la perseguitava, la minacciava, minacciava anche i suoi parenti. Lei lo aveva denunciato dopo che aveva tentato anche di scaraventarla giù dal balcone, ma era a piede libero. Una storia questa veramente di sconcertante ordinaria amministrazione, il caso di dire, di cui parleremo più tardi con l'avvocata Giulia Bongiorno. E potete scriverne anche voi se volete, sia sulla pagina Facebook di Effettonote sia al 349-238-6666. Parliamo anche di musei, perché nel pomeriggio il Presidente del Consiglio ha incontrato a Roma i 20 nuovi direttori dei principali musei italiani, selezionati con la procedura internazionale prevista dalla riforma Franceschini. Massima trasparenza, a questo proposito ha ribadito il ministro. C'erano dei criteri selettivi di ammissibilità e difatti non tutti i 1200 li avevano. Sono stati selezionati curriculum e quindi non parlavamo di sconosciuti, parlavamo di persone il cui curriculum è la prova principale. Non c'era nemmeno nessun obbligo di fare quel colloquio nelle procedure. Si poteva scegliere, come si fa in una gran parte di procedure selettive, semplicemente sulla base del curriculum, delle pubblicazioni. Chi sarà stato invece selezionato per la Juventus questa sera in Champions contro il Manchester City, caro Dario Ricci? Sì, sono stato selezionato io, direi. Prima di tutto, è chiaro. Questo siamo basta. Al 31esimo di gioco, Roberta, all'Etihad Stadium, 0-0 tra Manchester City e Juventus. Manchester City subito vicino al gol al secondo minuto con una splendida parata di Buffon che ha salvato su Sterling, altrettanto bravo anche Chiellini poi a liberare dalla situazione difficile l'area di rigore juventina. Juventus che poi pian piano si è ripresa, al 12esimo è andata addirittura in gol, ma giustamente è stata annullata la rete di Pogba per il fuorigioco di Morata. Al 12esimo una bella punizione di Hernanes dai 25 metri al lato di poco. Quindi 0-0, così come 0-0 anche in Siviglia, Borussia Mönchengladbach, l'altra partita del girone dei bianconeri. Rapidamente gli altri risultati: Atletico Madrid in vantaggio per 2-0 sul campo del Galatasaray, Paris Saint-Germain 1, Malmo 0, Real Madrid 1, Shakhtar 0. Tutte le altre gare, compresa quella della Juventus, appunto, solo 0-0. E ci sentiamo dopo per aggiornarci. Grazie Dario Ricci. Intanto leggo velocemente, prima della viabilità, qualche vostro messaggio. Maria sulla pagina Facebook di Effetto Note dice: perché ho lanciato questa proposta che farà l'avvocata Bongiorno più tardi, di un commissario ad hoc, come c'è il commissario anticorruzione per i femminicidi. Lei dice: un commissario, qual è il motivo per cui non abbiamo una ministra delle pari opportunità? Sì, è saltata, come pare, con l'avvento del governo Letta, se non sbaglio. Poi Domenico dice: sconcertante, siamo nel terzo millennio, non non in Italia. E poi ancora per sfatare, dice Tobia da Padova al 349-238-6666, per sfatare il mito del sud violento, del nord civile, che non so di chi sia questo mito, dice: comunque qualche anno fa una mia vicina di casa, che era una ragazza simpaticissima e cordiale, fu uccisa in casa sua dal suo ex a colpi di coltello di fronte al loro bambino. Dicevo, storia veramente di sconcertante ordinaria amministrazione, non c'entra nord-sud, non c'entra neanche il livello, l'estrazione sociale, proprio è un fenomeno endemico, purtroppo. A tra poco. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo. Fluentis.com. Vi presento. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, dice Silvia, scrivendo al 349-238-6666, che è uno dei due canali, voi sapete, potete utilizzare per esprimere le vostre opinioni durante Effetto Notte, perché l'altra, la pagina, è quella di Facebook. Effetto Notte, dice Silvia, ma è possibile che Renzi vada sempre in giro? Oggi, tra l'altro, d'altronde cerca di fare un po' il suo mestiere, diciamo. Oggi, tra l'altro, ci ha fatto sapere che anche l'IRAP agricola verrà abolita, meno male, ma non è che per eliminare quell'imposta troverà il modo di aumentare qualche altro esborso. Qui mi sembra che si spogli un altare per vestirne un altro. Staremo a vedere, Silvia, poi si valuterà. Intanto, proprio tra poco parleremo di politica per capire un po' di più questi dibattiti, questi strappi, chi sta con chi, quali sono le alleanze, con una persona che ci farà capire chiaramente un po' quali sono le motivi del contendere. Intanto però vi ricordo quali sono le notizie più importanti, se avete acceso la radio in questo momento, anziché puntualmente alle 21. A proposito dell'emergenza immigrazione, l'Ungheria arresta i migranti, oggi è il primo giorno in cui vale questa legge in Ungheria, e poi un centinaio di loro fanno sciopero, mentre la cancelliera Merkel esorta l'Italia ad aprire subito questi hotspot, che sono dei centri di identificazione. Renzi accelera sul Senato, intanto c'è lo scontro con la minoranza che lascia il tavolo del confronto nella Commissione Affari Costituzionali. Nella manovra ci sarà il pacchetto fisco, lo annuncia il sottosegretario Zanetti, che dice che diciamo, l'ambizione è quella di fare una scadenza unica per il fisco. Tensione sugli esodati, oggi la Lega, insieme con una manifestazione di protesta, ha occupato i banchi ha occupato il Ministero dell'Economia, e poi è stato trovato, per quanto riguarda il maltempo che ha colpito così pesantemente l'Emilia Romagna in particolare, trovato il corpo di uno dei due dispersi. Allarme attentato per il Papa negli Stati Uniti, arrestato un giovane sospettato di pianificare un attacco. E poi c'è anche questa notizia dall'estero, terzo giorno di scontri a Gerusalemme sulla spianata delle moschee. Occupiamoci del caos delle riforme. Vi dicevo che in particolare in questi giorni c'è questo febbrile dibattito sul nuovo Senato, quello fortemente voluto da Renzi e dalla maggioranza del PD. La puntata odierna della saga politica italica ha visto la minoranza PD abbandonare la Commissione Affari Costituzionali, questo tavolo di confronto, diciamo. Ma che cosa c'è davvero in gioco? Voi avete capito che cosa sono queste riforme, la riforma del Senato in particolare, perché chi è contrario e su cosa, e chi sta con chi, e se PD e Nuovo Centrodestra stanno nello stesso governo? Perché poco fa Quagliariello, che è il senatore, che è il coordinatore nazionale del Nuovo Centrodestra, che sta nella maggioranza insieme al PD, ha presentato un disegno di legge per una modifica dell'Italicum? Tutto questo lo chiediamo con grandi aspettative a Elisabetta Fiorito in diretta da Roma. Elisabetta, illuminaci tu. Allora, intanto bisogna stabilire due cose. Conto la legge elettorale è stata approvata ed è l'Italicum, e il Nuovo Centrodestra chiede questo cambiamento sul premio di coalizione e non di lista. Perché che vuol dire? Vuol dire che il Nuovo Centrodestra con il premio di coalizione si può alleare con la Lega, si può alleare con Forza Italia, può fare una coalizione di centrodestra, quella che abbiamo visto quando era al governo Berlusconi, poi c'erano un po' i litigi con Bossi, no? Ci ricordiamo tutti questi litigi. L'Italicum invece impone un premio di lista, cioè bisogna presentarsi un partito. Quello che vorrebbe il PD, insomma, no? Finora. No, quello che vorrebbe, quello che è stato approvato anche dal Nuovo Centrodestra, che però un pochino ci sta ripensando, perché il centrodestra è di per sé diviso in tre tronconi, diciamo così. Forza Italia, che adesso è diventato minoritario rispetto alla Lega, che è il partito adesso di maggioranza, ma non ha i voti al sud e quindi ha bisogno di Forza Italia, e il nuovo centrodestra e gli altri piccoli partiti che sono tipo Fratelli d'Italia. Avendo un premio di coalizione, loro potrebbero mettersi insieme, candidarsi per governare il paese, però ognuno con la propria autonomia. Invece in questo caso dovrebbero fare un listone, cioè mettersi insieme tutti quanti come partito unico, che non sono. Quindi si rimette un po' in discussione la legge elettorale, che in realtà era stata approvata così com'era. No, ma in questo però Renzi ha già detto che non si modificherà l'Italicum, tant'è vero che il problema adesso che una legge come l'Italicum, che era stata un po' pensata contro il Movimento 5 Stelle, perché la sfida sarebbe stata tra centrodestra e centrosinistra, adesso con questo centrodestra molto diviso rischia di essere invece la sfida tra PD e Movimento 5 Stelle. Ecco, invece concentrandosi sulla riforma del Senato, che è quella che oggi ha fatto vivere questo ulteriore strappo, diciamo, all'interno del PD, no? Lì entriamo, la legge elettorale è una legge ordinaria in Italia, quindi viene approvata con una modifica ordinaria della legislazione corrente, mentre la legge di riforma del Senato è una legge costituzionale, certo. Quindi ha bisogno di una procedura più elaborata, cioè i nostri padri costituenti, per evitare che venisse fuori un'altra dittatura, fecero una modifica rigida, è il famoso articolo 138, per cui vuol dire che questa legge, che già ha passato due voti, deve essere poi rivotata a distanza di 3 mesi per altre 2 volte, e dopodiché, se non ha i 2/3 di approvazione della Camera e del Senato, può essere soggetta a un referendum confermativo, che noi abbiamo già fatto per le riforme approvate dal centrodestra. La gente, il popolo italiano andò e votò per abolire quelle riforme, e quelle riforme furono abolite, perché il referendum confermativo non ha bisogno del quorum, cioè non ha bisogno del raggiungimento del 50%. In bullus che cosa c'è in ballo? C'è l'abolizione di fatto del Senato elettivo, così com'è, insomma, così com'è, del bicameralismo paritario, che anche lì è un problema, proprio la Costituzione italiana nacque con il complesso del dittatore, no? Perché veniamo da un ventennio mussoliniano. E quindi volevamo rendere il premier un pochino più debole e il Parlamento un pochino più forte. Ora si vede che con i tempi moderni è veramente farraginoso questo avere 2 camere che hanno gli stessi poteri, hanno gli stessi funzioni, lo stesso, quindi l'iter delle leggi è sempre molto affannoso, quindi bisogna ricorrere ai decreti leggi, a quella che si chiama la decretazione d'urgenza, no? Quindi praticamente si è capito che va cambiato. Allora, il Senato ha sempre avuto un'eleggibilità regionale, cioè più di rappresentanza sul territorio, quindi sulle autonomie, la Camera delle autonomie. Renzi la vuole rendere ancora di più così, vuole fare un Senato non elettivo, che vuol dire che i rappresentanti del nostro Senato saranno i consiglieri regionali, i presidenti di regione che sono già eletti nelle regioni e che andranno a discutere di problemi, di rapporti tra lo Stato e il potere invece regionale. Quindi Betta, per sintetizzare, chi ci sta e chi non ci sta, la minoranza del PD non mi sembra contenta, ma anche Forza Italia sembrava prima sì, poi no. Forza Italia ha votato prima sì, poi ha votato no, perché c'è stato lo strappo su Mattarella, no? Sull'elezione del Presidente della Repubblica. Allora, qui il problema vero è se ci sono i numeri oppure no. Pare che i numeri ci siano, ma molto sul filo di lana, perché qui abbiamo una minoranza democratica che dice che questa riforma insieme con l'Italicum dà troppo potere al Presidente del Consiglio, e quindi si rischia che per 5 anni, perché ricordiamocela, perché poi ci sono le elezioni, c'è non una piccola dittatura, questo, capito, contesta la minoranza democratica. Mentre dall'altra parte c'è Forza Italia che si è messa sul no, ma perché ha strappato su Mattarella, il Movimento 5 Stelle è per il bicameralismo paritario secco, perché loro sono molto parlamentaristi. Che cosa succederà? Succederà che i numeri sono sul fil di lana, il Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, Anna Finocchiaro, ha chiaramente detto che non si può più emendare, cioè non si possono più presentare emendamenti, quindi modifiche, tanto per far capire agli italiani, a questo famoso Senato non elettivo, cioè l'articolo 2 che è il cuore della riforma. Allora, secondo me alla fine ci sarà un po' di soccorso di Verdini e dei verdiniani. Il nuovo centrodestra cerca un po' di tirare la corda, come a dire votiamo questa riforma, se però ci fai fare il premio di coalizione per l'Italia, come no? Una sorta di baratto, scambio. Ma come sono molto bassi come consenso, no? Si vede nei sondaggi, sai, non hanno questo potere anche nei confronti del Premier, che sta risalendo nei sondaggi, tra le altre cose, per una sorta di effetto Merkel, poi insomma sono tutte cose complicate, perché sai, su questi sondaggi settimanali poi i partiti politici studiano in maniera molto sibillina e poi spesso non sono molto fondati, l'abbiamo visto anche con le ultime elezioni. Sì. Ricordiamoci che gli italiani sono un popolo conservatore, quindi cercano sempre di conservare lo status quo quando poi votano, come un po' la DC o Berlusconi prima, adesso diventano un po' Renzi. Insomma, comunque Renzi il segreto dell'urna dice il 15 ottobre io voglio chiudere tutto, bisognerà vedere, no? Adesso vediamo, aspettiamo, attendiamo di vedere come vediamo. Si procede. Certo è, in questo momento i numeri non ci sono, o comunque sono molto ballerini, perché senza la minoranza Dem al Senato, ricordiamoci che il Parlamento, che è espressione in questo momento del governo perché gli ha dato la fiducia eccetera, però è uscito da quelle urne che hanno dato tre partiti paritari, vi ricordate, no? La coalizione centrodestra, il PD e il Movimento 5 Stelle, per cui al Senato questa situazione di parità c'è sempre stata. Dall'altra parte bisogna capire un attimo questo nuovo centrodestra che cosa fa, perché c'è Formigoni che non vuole votare, insomma lì si conteranno le teste uno a uno, c'è il soccorso degli ex azzurri, dei verdiniani, e poi secondo me qualche cosa Renzi potrebbe anche avere attraverso la stessa Forza Italia, perché vedremo un po', vedremo un po'. Ricordiamoci che la Boschi ha detto noi cerchiamo un ampio consenso, e lo vedremo se è ampio questo consenso o no. C'è ancora un pochino di tempo, non moltissimo. Grazie Betta Fiorito da Roma, ciao Betta. Grazie a voi. Europa 24 notte. Siamo adesso nello spazio europeo. Secondo voi di cosa parliamo principalmente quando si parla di Europa? Parliamo di un'Europa che si trova, diciamo, il giorno dopo al fallimento di quel summit di cui parlavamo ieri. Ci eravamo lasciati con Sergio Nava mentre era ancora in corso. Poi vi ho aggiornato io a fine effetto notte dicendo no, hanno chiuso senza nessun accordo. Adesso che succede mentre c'è questa pressione migratoria che continua alle frontiere lungo le rotte di cui vi abbiamo raccontato in questi giorni, no? Che sia il Mediterraneo, che siano i Balcani. Sergio, no, eccoci. Beh, ascoltando poi quello che diceva Elisabetta Fiorito, si verrebbe quasi da dire con una battuta: abbiamo esportato la nostra confusione mentale e politica in Europa, perché è veramente la ma è confusione... solo nostra, è solo nostra questa, no, Sergio. No, vedo appunto, che anche la gli confusione altri paesi... che descriveva Elisabetta poco fa nella nostra politica è stata contagiosa. Ha contagiato ormai un continente, perché alla fine il quadro purtroppo non è molto diverso. Abbiamo un'Europa che è totalmente, per citare un fortunato romanzo di un autore marsigliese, potremmo definirla un total chaos, un caos totale. Izzo, mi riferisco al romanzo di Jean-Claude Izzo. Perché abbiamo da un vertice fallito una bulimia di vertici convocati, 22 settembre, cioè martedì, nuovo vertice straordinario dei ministri interni. Angela Merkel e il cancelliere austriaco Faymann spingono per avere un vertice straordinario dei 28 leader la prossima settimana, anche se pare poi non parleranno di quote ma di politica migratoria generale e anche di aiuti ai paesi terzi per alleggerire il flusso di rifugiati. Il presidente del Parlamento europeo Martin Schulz, che mette in calendario un voto per dopodomani, giovedì, il Parlamento europeo ancora sulla questione della ripartizione dei profughi, ancora sulla proposta della Commissione per dare un segnale politico, per forzare la mano. Dall'altro lato i paesi dell'est che di fatto stanno ormai andando seguendo il loro percorso, perché l'Ungheria è in testa, no? Che ha cominciato ad arrestare, dire, i migranti. Sta non solo arresta i migranti, non solo nega l'asilo, già ha una manciata di migranti che l'hanno chiesto oggi, ma addirittura avanza ancora un po', se vogliamo, in questa follia del muro fino alla Romania, mi perché sembra, no? Fa un muro interno all'Unione Europea, vuole progetta un muro interno alla stessa Unione Europea, e sarebbe alla fine anche abbastanza un unicum, finché lo fai con la Serbia, che tecnicamente è esterna all'Unione Europea, lo fai con un paese terzo, se lo fai con la Romania lo fai all'interno dell'Unione Europea. E Bucarest, che pure è alleata, protestato, sulla questione delle quote con Budapest, protesta perché dice è una violazione palese di Schengen. La Slovacchia e la Repubblica Ceca restano anche loro molto dure sulla no alla ripartizione dei profughi. Il possibile compromesso, se vogliamo dirla tutta, potrebbe essere il solito compromesso annacquato, abbiamo già visto a luglio, sui 40.000, cioè quota vincolante di 120.000, ma poi su come li ripartiamo lo decidiamo più avanti. Temo finirà così alla fine di tutto questo grande turbinio. Si prende altro tempo, insomma, si gioca un po' a ribasso e si prende altro tempo. Però il ritratto, se vogliamo, è veramente devastante. Cioè, dopo la crisi greca e anche le enormi difficoltà con cui l'Europa l'ha superata, anche enormi danni di immagine che ha avuto, questo è un ennesimo fortissimo danno di immagine per il progetto europeo. Bisogna sinceramente anche cominciare a chiedersi dove sta andando questa Unione Europea, se ha ancora senso fatto in un certo modo, perché veramente passa da una crisi all'altra, da un danno di immagine all'altro. È un periodo veramente pericoloso per la stessa Europa. Desolante. Grazie Sergio. Grazie Lama. A voi. Ciao Sergio. Ciao. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Logisticamente, Modul Block. Dal più piccolo magazzino, semplice o automatico, al più complesso centro logistico. Vi presenta. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. E adesso occupiamoci di quella che è diventata purtroppo davvero, bisogna dire, una routine nel nostro paese, non soltanto nel nostro paese, malauguratamente, ma alla quale ormai ci si abitua come una notizia di sottofondo, come tante altre che ogni tanto, insomma, capita, almeno due volte, tre volte a settimana. Solo nella giornata di ieri, infatti, ci sono stati, ve l'avevo raccontato nella puntata di ieri, due femminicidi. Il primo, un quarantenne che ha ucciso a coltellate la moglie di 47 anni nella loro abitazione di Asti, in Piemonte, davanti al suocero che aveva cercato di fermarlo, ma invano, ed è stato ferito. E poi questo caso a Tersigno, in provincia di Napoli, di una giovane donna, Vincenza Avino, di 36 anni, che è stata uccisa per strada da una raffica di proiettili partita da un'auto che le si è avvicinata in corsa. A sparare, si potrebbe dire banalmente a questo punto, perché sembra quasi cinico, ma banalmente perché è quasi più facile, da un certo punto di vista, da un po' di tempo, per gli investigatori capire, quando viene uccisa una donna, dove andare a parare. È stato il suo ex compagno Nunzio Annunziata, che è stato arrestato all'alba di oggi a Poggio Marino dai carabinieri di Torre Annunziata. L'accusa è di omicidio volontario, ma la cosa particolarmente grave è che Annunziata, l'assassino, era stato già arrestato lo scorso 10 luglio, quindi da poco tempo, per stalking proprio nei confronti di Vincenza, che era la sua compagna, ed era stato successivamente mandato ai domiciliari, quindi a casa, insomma gli arresti a casa. Dopo 13 giorni di questi arresti domiciliari, il riesame lo aveva rimesso in libertà con l'ordine di non avvicinarsi alla donna. Vi immaginate ormai questi ordini così perentori di non avvicinarsi alla donna? E il fratello della povera ragazza uccisa, Francesco, racconta al quotidiano Il Mattino che l'assassino di sua sorella, oltre allo stalking, aveva tentato qualche tempo fa di lanciarla giù dal balcone. Infatti lui dice, eppure tra l'altro circolava liberamente, dice il povero fratello Francesco, se lo avessi ucciso quando voleva lanciare dal balcone mia sorella, ora sarei in carcere, ma forse lei sarebbe viva. Si è sfogato così. E c'è un altro particolare agghiacciante, come se tutto questo non bastasse, lo racconta sempre il fratello della vittima, dice che pochi secondi dopo aver ucciso l'ex compagna, Annunzio e Annunziata ha telefonato al fratello, a lui Francesco, della donna che aveva appena ucciso, e dal cellulare di lei, tra l'altro, dicendogli il prossimo sei tu. Quindi praticamente nella sua fuga l'assassino ha intervallato questa fuga con altre telefonate di minaccia ai familiari, e il fratello della vittima, tra l'altro, dice è stato veramente un incubo, perché quando sapevamo che ormai era morta, ho visto una telefonata dal cellulare di mia sorella, ho quasi pensato che si fosse risvegliata dall'obitorio. Insomma, immaginate anche lo stato d'animo dei familiari. Voglio parlare di questo con Giulia, buongiorno, buonasera avvocata. Buonasera a tutti. Notissima avvocata che insieme tra l'altro a Michel Uzzi, che era fondato Doppia Difesa, che è l'associazione in difesa delle donne vittime di violenza. Avvocata, io le voglio chiedere, Quest'uomo, come in tantissimi altri casi, era già stato denunciato, si era mostrato violento e insistente, la perseguitava, perseguitava anche i suoi familiari, in più aveva anche a luglio tentato di buttarla giù dal balcone. Quello che ripetono i parenti è: non è bastato denunciarlo, infatti continuano a dire ormai, no, donne, denunciate, denunciate, cambiate cultura, non nascondete, non vergognatevi, non salvaguardate i vostri persecutori, ex mariti, ex compagni, ex fidanzati, eccetera. Però a cosa serve denunciare a questo punto? Ha inquadrato correttamente il problema, nel senso che fino a 5-6 anni fa il problema era che le donne non uscivano allo scoperto, non avevano voglia di denunziare, e quindi quando accadevano questi fatti, un po' noi dicevamo, purtroppo nessuno poteva immaginarlo. Negli ultimi 4-5 anni c'è stato un aumento esponenziale delle denunzie. Tuttavia c'è un fenomeno, la sottovalutazione dell'urlo d'allarme delle donne, una sottovalutazione che a mio avviso è anche legata a un tipo di visione che si ha delle donne, ancora come soggetti un po' deboli, un po' se vogliamo isterici, cioè l'ex che va a denunziare il suo compagno è considerata più una femminuccia, una donnicciola che va a fare una denuncia. Cioè c'è molta più attenzione e molto più allarme per reati dei colletti bianchi, molte più misure cautelari per reati contro la pubblica amministrazione, piuttosto che per reati di sangue come questi. E questa è la cosa grave, una sottovalutazione dell'urlo della donna che ormai si fa sentire. Avvocata, buongiorno, ma allo stato delle cose adesso, cioè, dovremmo continuare a assistere a situazioni di questo tipo? Che cosa si deve fare? Allora, bisogna cambiare la legge, bisogna fare una campagna, allora, vasta di... Si può, da un lato stabiliamo che d'ora in poi, in poche ore, nel momento in cui ci sono delle denunce, il soggetto denunziato deve essere immediatamente convocato. Dice, sprecheremo uomini, va bene, sprecheremo della fatica, ma salveremo vite di donne. Punto numero due, basta con questa gestione senza specializzazione, cioè la gente che raccoglie una denuncia, che normalmente sono forze dell'ordine, devono essere specializzate, cioè devono avere fatto dei corsi di formazione. La violenza nei confronti delle donne non è come la violenza negli stadi, va gestita in un certo modo, quindi ci vogliono anche dei corsi specifici per questo personale. E poi ancora, visto che abbiamo la certezza che ormai accade, come le diceva lei, il numero di volte in cui si va in palestra, 2-3 volte la settimana, allora è chiaro che ci vuole qualcosa di forte. Chiediamo immediatamente un commissario, esiste il commissario anticorruzione, Cantone ha fatto pulizia, bene, che ci sia un commissario che verifichi come sta operando, come stanno operando le forze dell'ordine, i magistrati, e se qualcuno in questi casi effettivamente sta tollerando un po' troppo il fenomeno, allora non dovrà più occuparsi di questi casi. Guardi, basta in questo paese tollerare tutto, chi sbaglia deve pagare. Lei si può fare promotrice, avvocata buongiorno, di questa cosa, perché vedo che è tutto abbastanza stagnante. Ha ragione lei, è tutto stagnante e soltanto a fine anno si contano poi i femminicidi e sui giornali spuntano i numeri. Io cercherò, prendo questo impegno sin da ora, di parlarne sia con la Micheluzzi che sia nella nostra fondazione. Noi chiederemo un commissario contro i femminicidi. E io e noi la sosterremo per quanto possibile, avvocata buongiorno. Grazie, abbiamo bisogno anche di voi. Grazie, buona continuazione. Buona serata. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Ed ora in pochi secondi Roberto Giordano ve le ricorda, mentre voi continuate a scrivere sulla pagina Facebook di Effetto Notte e anche al 349-238-6666. C'è Obama che, a proposito dell'emergenza migranti, dice tutta l'Europa deve collaborare per risolvere la crisi dei migranti. Uno potrebbe dire grazie tante, nel senso, vabbè, un'esortazione. Poi, per quanto riguarda le altre notizie, le riforme, c'è stato lo strappo della minoranza PD che abbandona il confronto sul nuovo Senato. Esodati, c'è stata la protesta oggi al Ministero dell'Economia per chiedere la tutela per 50.000 senza lavoro né pensione. Ne parleremo tra poco, così come anche dei dati Istat sui disoccupati. Poi le vittime del maltempo, è stato ritrovato nel Piacentino il corpo di uno dei due dispersi. Femminicidi, ne abbiamo parlato poco fa, fermato all'alba l'ex compagno della giovane donna uccisa ieri vicino Napoli, accusato di omicidio volontario, lei lo aveva denunciato più volte. Poi per il calcio c'è la Juventus in Champions contro il City a Manchester. E adesso il nostro Checco Padula, vice direttore del Sole 24 Ore, ci spiega alcune cose. Ciao Checco. Ciao, buonasera. Ci sono i dati Istat che dicono che per quanto riguarda il lavoro scendono gli scoraggiati, soprattutto il sud, e tre giovani, ma 9 su 10 continuano a cercare lavoro attraverso amici e parenti, cosa desolante purtroppo che ci fotografa il tempo di crisi in cui viviamo. Checco. Sì, diciamo che è uno dei dati che arrivano, direi, con sempre maggiore frequenza sull'andamento del mercato del lavoro, e ogni 10 giorni, 15 giorni abbiamo una chiave di lettura diversa. Oggi certamente una chiave di lettura interessante è che diminuiscono gli inattivi. Chi sono gli inattivi? Gli inattivi sono le persone talmente, diciamo, sfiduciate di trovare un'occupazione che smettono persino di cercarla, quindi non lavorano, non studiano e non cercano un lavoro. Ecco, nel secondo trimestre del 2015 queste, le persone che si trovano in questa condizione sono leggermente diminuite di 13.000 e rotte unità, però il tasso di inattività, quindi diciamo le persone che tra i 15 e i 64 anni sono in questa condizione, sono comunque molto numerose, rappresentano il 35% di tutta la popolazione attiva. Ed esiste attiva, quindi, anche il problema, Checco, degli esodati. Oggi c'è stata la protesta al Ministero dell'Economia, questo, ancora 50.000 che... è un altro problema grosso, come giustamente hai detto prima tu, sono le persone che con l'entrata in vigore della riforma delle pensioni nel 2012 si sono trovate senza lavoro, ma non ancora, diciamo, con i requisiti nuovi richiesti per accedere al pensionamento. E questo è stato un problema molto grosso della riforma Fornero. Pensa che dal 2012 a oggi sono già state fatte 6 salvaguardie, cioè 6 blocchi di lavoratori in queste condizioni sono state, diciamo, salvaguardati, salvati. Sono circa 120.000 persone. Adesso sono stati stanziati 12 miliardi in tutti questi anni per, diciamo, salvaguardare queste persone. Adesso sembra ci sia un ulteriore bacino di circa 50.000 persone che si trovano in questa situazione. Il problema però è che servono i soldi, perché per attribuire la pensione a queste persone servono i soldi. Qualcuno dice che i soldi ci sono, perché da quei 12 miliardi inizialmente stanziati ne sono avanzati più di 3, secondo altri però questi soldi servirebbero ad altre cose, quindi il governo però, devo dire, oggi mi sembra si sia impegnato a trovare una soluzione anche per questi 49.000-50.000. Sarebbe l'ora. Senti, abbiamo meno di un minuto, non so se in 40 secondi riesci a spiegarci cos'è la digital tax di cui ha parlato ieri Renzi. Abbiamo proprio Insomma è una cosa molto complicata, però diciamo per cercare di semplificare è il tentativo di far pagare alle multinazionali del web, tipo Google, tipo Amazon, tipo Apple e tante altre, Facebook, di far pagare in Italia tasse che attualmente non pagano, perché per strani meccanismi che consentono di contabilizzare all'estero, quindi non in Italia, ma dove loro hanno magari le loro sedi, in paesi fiscalmente più convenienti, che possono essere l'Irlanda, il Lussemburgo, eccetera, di contabilizzare lì i loro ricavi, e non pagano niente o pagano molto poco da noi. Questa web tax è il tentativo, quindi, come forse giustamente ha detto, non so se Renzi o il sottosegretario Zanetti, in realtà non è proprio una nuova tassa, è un meccanismo anti-elusione, cioè un meccanismo per dire a questi signori: anche voi dovete pagare le tasse, dovete pagarle, e dovete pagarle qui da noi. È così, anche un po' le nostre casse magari. Molto complicato. Come tante cose. Grazie Checco Padula. Grazie a voi. Ciao. Ciao. Dario Ricci ora ci dirà se in Champions la Juventus ha combinato qualcosa di buono finora contro il Manchester. Innanzitutto non le sta prendendo, e direi che è già una buona notizia per i tifosi juventini, perché siamo al 53esimo di gioco all'Etihad Stadium, ancora 0-0 dopo il grande spavento al secondo minuto su l'incursione di Sterling, respinta miracolosamente da Buffon. La Juventus non ha più corso grandi pericoli, ha cercato anche di farsi vedere in avanti. Finora risultato di 0-0. 0-0, curiosità, l'unico 0-0 finora che sta maturando in questa serata ricca di gol. Nell'altra gara del girone dei bianconeri, Siviglia in vantaggio per 1-0 sul Borussia Mönchengladbach. Non ho capito bene il Mönchengladbach, ma Mönchengladbach, mi raccomando, esercitati, perché almeno per tutto il girone eliminatorio questa squadra dal passato glorioso e anche dal presente invidiabile tedesca ci sarà, quindi Roberta, mi raccomando, fammi ripetizioni dopo, ci vediamo più tardi. Grazie Dario Ricci. Ciao, ciao. Ciao Dario, ci risentiamo alle 22.